Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina. Oggi è il 31 agosto, è la prima edizione di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 dedicato alla cronaca italiana, ai problemi, alle eccellenze delle città, ai casi di nera, di giudiziaria, alle inchieste e ai reportage. La prima storia viene dalla provincia di Napoli, circumvesuviana, si chiama così, il sistema di trasporti più importante della Campania. Quest'estate è stato coinvolto in un incidente di gravissime dimensioni. Siamo tornati a vedere cosa non funziona nella circumvesuviana con Paolo Piccone. Ho sentito una botta, subito sono usciti. Io pensavo che erano qua perché stavano buttando, invece no, ho visto un signore che stava a terra, che non si muoveva, hanno detto che era morto. Abbiamo tirato fuori una ventina di persone, più o meno quello che potevamo, perché altri erano incastrati sotto i sedili e abbiamo piegato dei sedili per far uscire alcune persone. Sono alcune delle testimonianze che raccontano il deragliamento avvenuto venerdì 6 agosto di un treno della circumvesuviana sulla linea tra Napoli, San Giorgio e Cremano. 58 feriti e un morto il bilancio dell'incidente. Il treno deragliato al Metrostar, uno degli ultimi arrivati in circumvesuviana che dall'inizio del 2009, finalmente dopo oltre 30 anni, aveva rinnovato in parte il suo parco treni. La caratteristica principale del Metrostar è la sicurezza. Come teneva a sottolineare quando furono consegnati i primi nuovi treni l'allora assessore regionale ai trasporti Ennio Cascetta. Dietro questo treno c'è tanta ricerca, c'è tanta progettazione, c'è la capacità di imprese campane di competere a livello internazionale, perché questo treno è stato aggiudicato ad Ansaldo e a Firema a esito di una gara internazionale. È un treno che ha, come dicevo, molte innovazioni tecnologiche che consentiranno una migliore qualità complessiva da tutti i punti di vista. Saranno comunque le indagini in corso a dover dire se il deragliamento sia stato causato da un errore umano oppure da problemi di natura tecnica. Da qualche settimana la polizia, su delega dei magistrati, ha anche sequestrato documenti, file informatici e relazioni tecniche negli uffici della direzione della società. Ma il problema sicurezza è sempre stato all'ordine del giorno della circumvesuviana, innanzitutto per i continui episodi di delinquenza ai danni dei viaggiatori. Non c'è sorveglianza, specialmente nelle ore serali, si trova di tutto, drogati, ladruncoli. Maggiormente in ritardo, spesso e volentieri. È un po' rischiosa. Il servizio lo trovo bene, solo che dovrebbe essere un po' più controllato a livello di persone che salgono sui treni, tipo tossici. Per quanto riguarda l'orario dei treni sono precisi, però scarseggia molto in pulizia e in controllo a bordo. Faremo di più, prometteva tempo addietro Alessandro Rizzardi, l'amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, l'holding regionale del settore dei trasporti, proprietario di Circumvesuviana. Ma credo che sulla puntualità siamo a buon punto. Le nostre stazioni sono sicuramente diventate più accoglienti e più pulite, ci abbiamo ancora molto da fare. Ma il nostro piano prevede nei prossimi anni sicuramente interventi mirati. Sulla puntualità dei treni nessun dubbio dunque, neanche sulla pulizia delle stazioni, ma sulla sicurezza, dopo soprattutto l'incidente di quest'estate, è tutto un altro discorso. Certo è che nei decenni di incidenti sulle linee della Circum se ne contano davvero tanti, sicuramente troppi. Un dato che ripropone il dubbio, più volte paventato dalle istituzioni ma anche dalle associazioni di consumatori, sulla sicurezza di questi treni. Il primo grave incidente risale al 20 agosto del 1976. Un incendio su un convoglio causa 350 ostionati o contusi a Napoli. Nella provincia, a Cercola, in uno scontro frontale tra due treni muoiono 14 persone, altre 70 restano ferite. È il 10 luglio 1979. A Poggiomarino, il 16 settembre 1983, un treno investe un camion in un passaggio a livello. Nell'urto, il camion demolisce la casupola del casellante che muore sul colpo, feriti alcuni viaggiatori. Il 18 settembre del 1984, sempre a Napoli, uno scontro in un passaggio a livello tra un treno e un autocarro, almeno 17 feriti. Si arriva agli anni 2000, il 26 gennaio 2006, a Pollena Trocchia, un treno proveniente da Sarno deraglia mentre entra nella stazione, due per fortuna i feriti. 22 gennaio 2009 a Castellammare Terme, sempre nel napoletano, un albero staccatosi dal costone si abbatte su un convoglio in transito colpendo la cabina di guida. Feriti il macchinista e il capotreno.